saremmo adesso se invece di Siddhartha ci fossimo messi a leggere la Magna Carta, se invece di Lapierre e dei dipinti di Dalì ci fossimo affezionati alle sventure di Madame Bovary. Chi saremmo adesso se per un futuro certo ci fossimo iscritti a economia e commercio? Aspetteremmo ansiosi la pensione di papà per prendere il posto nella società. Una cosa certa, quelli non siamo noi, con una strada stretta quelli non siamo. Se fossimo equilibrati, saremmo anonimi indistinti, passeremmo inosservati in quella qualunquismo, mentalità stereotipate, vittime del consumismo, delle pizze sigillate. Siamo noi, inferiati alla finestra, quelli non siamo noi, la porta è sempre aperta, questi sì siamo noi, una cosa certa, quelli non siamo noi.